Slick chick, see, a neat chick, the she's what makes me tick. Mama, hey, hey, hey. Clickety click, a slick chick, hey, hey, hey, hey. A high heels on for the baby blues. Hey, hey, hey, hey. Man, oh man, what a sack. Hey, hey, hey, hey. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, yeah. It was a night. Yeah. Yeah. Everybody stopped, we're on a dime to look. Yeah. Yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah. Yeah. Yeah. She's my clickety click, I'll stitch it. Yeah. Yeah. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, oh man. She is mine, I said, I got a stick chick, she's a neat chick, but she what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, clickety click, a stick chick, yeah, yeah, yeah, don't you know she's a slick, yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. I stick, yeah, yeah, a chick, yeah, yeah, ah, yeah, yeah, yeah. Chick, chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Click, click, click, chick. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got, yeah, a crazy, yeah, little chick. Yeah, yeah. I don't, yeah, you know she's slick. E buonasera a tutti quanti, vi aspettavate senz'altro di sentire la calda e sensuale voce di Bloody Mary DJ, che normalmente tiene la trasmissione Slick Chick il mercoledì sera alle 21 qui su Radio Wombat, e invece no, ciccia, questa sera ci sono io perché l'ho chiuso in uno sgabuzzino e faccio la trasmissione al posto suo. No, non è vero. E, in realtà oggi Bloody Mary è impegnata nelle prove con il suo duo Karakuri per una serata che avverrà, si terrà questo venerdì 21 aprile al Next Emerson, e che vedrà appunto, oltre al suo show definito Very Minimal Stuff, perché sono solo in due, contrabbasso e voce, la Bloody Mary è la voce, chiaramente, e gli altri gruppi che suoneranno sono i Franti MM, c'è cioè una rivisitazione, un trio mi sembra di ricordare, che proviene in realtà dal lontano 1982 torinese, cioè un trio che ha suonato per un sacco di tempo a Torino, ha visto la partecipazione di un sacco di musicisti della scena punk e limitrofa di quella città, e che da un po' di tempo si è rimessa assieme e rigira di nuovo. Vengono a Firenze a trovarci appunto all'Emerson questo venerdì, il 21 aprile. Oltre a loro ci saranno i White Room da Massa, che sono un altro gruppo molto interessante, questa volta di giovinetti, e poi, raccattata mi sembra all'ultimo per una data mancata, ci sarà anche Tu Nonna, una pregevole cantautrice romana che, se non la conoscete, dovete assolutamente andarvela a cercare. Poi durante sempre questa, diciamo, la serata avrete anche occasione, se venite, di vedere una mostra che era stata un po' di tempo fa all'Accademia qua a Firenze. È una mostra fatta di fanzine punk circa degli anni 80, curata da Tommaso Tozzi, e ve la potete vedere durante la serata perché la appiccichiamo sui muri, e poi durante la serata rimane lì. Mi raccomando, non potete portarvi a casa niente, non potete scrivere sulle le cosine appiccicate, perché sennò poi noi ci rimaniamo tanto tanto male. Ah, io mi ero dimenticato, se non mi conoscete, di presentarmi. Io oggi sono Bloody Mario. Di solito sono lo schiavo, non mi fanno fare mai le dirette, ma appunto oggi per fare il tappabuchi io, zac, mi sono subito infilato e faccio così la trasmissione. Siccome però mi hanno imposto chiaramente dei vincoli, mi hanno detto sì, però non è che puoi dire che cazzo ti pare, devi fare una trasmissione con un senso, e il senso di solito di Slick Chick è trovare un tema e poi portarlo avanti per tutta la trasmissione saltando un po' di qua e un po' di là. Ecco, io allora ho scelto come tema in realtà una canzone, perché non riesco mai a mettere il funky in radio, e allora questa sera che me lo facevano fare ho detto boh, io voglio fare una roba che ha a che fare con questo genere musicale un po' ballabile che a me mi piace abbastanza. E allora ho deciso di fare un omaggio a una persona che è già stata citata, a un artista che è già stata citata anche in questa trasmissione. Infatti, in una puntata su, mi sembra San Valentino, è stato passato un pezzo di una signorina che si chiama Betty Davis, e essa aveva fatto un pezzo che si intitola appunto Anti-Love Song, che è una canzone adatta appunto al San Valentino. Ecco, io ho deciso di riprendere. Diciamo i brani, di riprendere la carriera musicale di Betty Davis e però di sviscerarla in un altro senso, nel senso che tutto il filo conduttore della puntata sarà in realtà un pezzo scritto da lei che si intitola per appunto Funk e che aveva un testo che voleva essere una specie di omaggio a le persone che l'hanno ispirata e con cui lei poi ha stretto rapporti con alcuni di loro, almeno anche musicali. Cioè, Betty Davis, vi rifaccio la storiella, anche se forse l'aveva già fatta la legittima detentrice di questa trasmissione a suo tempo, però Betty Davis in realtà nasce con un altro nome, il suo vero nome è Betty Mabry, si chiama Davis perché a un certo punto della sua vita ha sposato Miles Davis, sono stati sposati per un anno, lei in realtà era una studentessa dell'Accademia d'Arte. Non mi ricordo più dove, tipo a New York forse l'ha fatta, non lo so, comunque chi se ne frega. E poi diventa, dopo diciamo, finita la scuola, diventa una modella, entra, però fin da piccola gli piaceva un sacco la musica. A un certo punto della sua vita sposa Miles Davis, sta con lui un anno, già in quell'anno lo apre praticamente a tutta la storia del rock, che finora Miles Davis era un po' fregato, poi dopo un po' si divorziano, rimangono comunque abbastanza amici, lei decise che si tiene il cognome e inizia una carriera per i fatti suoi, sostanzialmente da solista, che in realtà è una carriera abbastanza breve, sarà attiva più che altro negli anni 70, però in quegli anni 70 farà delle cose fighissime, nel senso che lei, un po' da tutti, è indicata come l'inventrice della fusion e comunque avrà un occhio d'attenzione diciamo, per quello che stava accadendo allora nell'ambito della cosiddetta black music, ma anche no. E appunto sviscererà quattro bellissimi, cioè un paio di album. In realtà poi sono un po', diciamo, quelli famosi sono quattro, ma la sua carriera appunto in termini di album è veramente stringata, nel senso che negli anni 70 alla fine ne fa tre, e uno è tipo uscito poi nel 2009, che però sono tutte registrazioni del 76, quindi gli album diciamo prodotti da lei sono poi solo tre. E per tirare fuori questa roba, lei chiamerà a suonare con sé praticamente tutti i maggiori artisti della scena funk attuale, cioè attuale di allora, e in particolare in questa canzone che si intitola appunto Funk, farà una specie di omaggio a quelli che per lei sono stati probabilmente gli ispiratori. Quindi ripercorre un po' il testo della canzone, non è molto minimale, in realtà è una roba tipo sì, c'ho il funky dentro, c'ho la musica dentro, e come me ce l'avevano tutte queste altre persone che poi cita e che noi durante la trasmissione andremo a prendere dalla canzone e ad ascoltare, quasi, quasi tutti, non tutti tutti, ma quasi tutti, comunque ve li cito tutti anche se poi alla fine non li ascoltiamo. E quindi apriamo le danze, se volete ballare potete, io vi lascio. con la prima, diciamo, citazione di questo pezzo. Il pezzo poi, quello vero, funk, lo ascoltiamo in realtà per ultimo, perché ho deciso di fare le cose al contrario, se no vi rovino, non lo so, per me mi piaceva di fare al contrario. Il primo citato nella canzone, nel testo della canzone, è Sly Stone. È interessante che lei dice di Sly Stone, lo cita perché cause, vi leggo dall'inglese mio pessimo, ma poi ve lo traduco anche come riesco, cause it took me higher, cioè perché mi ha portato, cioè took me higher, in realtà sarebbe mi ha fatto sballare. È una buffa cosa legata al nome di Sly Stone, perché in realtà lui era anche abbastanza famoso nell'ambito, oltre che per essere un maledetto genietto che sapeva suonare mille strumenti. Aveva questo gruppo Sly Stone and the Family, che era praticamente tutta la sua famiglia, e facevano un sacco di bella musica. Poi si sono litigati, in realtà sta famiglia è un po' andata ai maiali, però era un pochino famoso perché se drogavano un sacco. Cioè lui, c'è questa leggenda che andasse proprio in giro con una specie di custodia di violino piena di droga, e anche droga abbastanza brutta. Cioè lui ovviamente sì, era il suo master era cocaina e la PCP, e insomma non così. Infatti anche la sua carriera è un po' stata un po' devastata da questo molteplice, cioè da questo massacrarsi di droghe. E infatti gli ultimi, diciamo, dopo un po' non produceva quasi più niente, e negli ultimi anni era stato avvistato un po' abbarbonato di qua e di là. Gli altri membri della famiglia in realtà negano che fosse proprio così abbarbonato, e però insomma non ha avuto una carriera felice. Però c'è da segnalare che nel suo apice della carriera in realtà era un artista anche molto politicizzato, ha avuto parecchi rapporti anche con l'allora movimento delle Black Panthers. Forse ricorderete di lui Revolution Will Not Be Televised, che era un pezzo che parlava sostanzialmente dei riot degli anni 70 nei ghetti neri. E quello che però noi ora ci andiamo ad ascoltare in realtà è un altro pezzo che si intitola Every Dog Has His Day, che mi piaceva perché gli altri, se non poi, sono troppo famosi e li conoscete già tutti. Yeah. brano aveva un sound molto Nord and Soul, poco funky, perché ho preso proprio le prime cose. In realtà faccio subito la prima errata a corrige, che proprio mentre lo dicevo ho detto: no, ma che cazzo dici, non è vero, è G. Scott Heron che ha fatto Revolution Will Not Be Televised, non Lion the Feminist Stone, però tutto il resto che ho detto è vero. E però mi scuso, subito apro una figuraccia per quello che non mi fanno fare più le trasmissioni in diretta, perché io poi studio poco, oppure anche se studio mi dimentico le cose via via. E così. Il secondo artista citato però nella canzoncina, proprio due versi dopo, il verso dice: I had the inner vision of a young man named Stevie Wonder, ed era proprio lui, il signor Stevie Wonder, che in realtà questa sera vi volevo fare ascoltare in una versione piuttosto inedita. Stevie Wonder ha avuto una carriera lunghissima, con molte cose che ha fatto sono anche abbastanza bruttarelle, onestamente. E nella sua prima invece versione era molto soleggiante, e in particolare ve lo volevo far ascoltare in questi breve, diciamo, insert di due pezzi che ha fatto, e poi subito dopo volevo far ascoltare anche la versione italiana di uno di questi due pezzi, che addirittura la Rai gli aveva chiesto: boh, rifaccela, perché questo pezzo spacca un sacco. E quindi lui aveva fatto questa versione che si intitola Il sole di tutti, della canzone A Place in the Sun. Io vi faccio ascoltare prima diciamo, la versione originale, che poi non è proprio originale, è preso forse da un live, non lo so, e poi subito dopo la versione in italiano, così senza soluzione, cioè di continuità, uno dietro l'altro. E ora quindi godetevi il signor Stevie Wonder quando era un ragazzetto. We go out stepping on the town for a while. My money's low and my shoes are stuck, but it's alright if my clothes aren't new. Out of sight, because my heart is true. She said, you might say, I guess some folks brought her up that way. The right side of tracks, she was born and raised in a great big house full of butlers and maids. No one is better than I, but I know I'm just an average guy. No football hero or a smooth Don Juan. Got empty pockets, you see, I'm a poor man's son. Can't give her the things that money can buy. But I never, never, never make my country cry. And it's all right, Stevie came to out of sight, because my heart is true. She said, baby, everything is all right. Upside, clean our side. Baby, everything is all right. Upside, clean our side. Baby, everything is all right. You know, the last time you were here, you and I were about the same size. You passed me. That's life. You know what I'd like to ask you? You have been... You want to hold that? Yes, please. You have been sightless since birth, and we who are fortunate enough to be able to see can sort of spend time with people and kind of decide for ourselves whether or not they're good people, whether we like them. How do you, being sightless, form an opinion of someone? Well, actually, I think by being blind, it helps. Not that I want you to stick a pin in your eye, you know. But, you see, sometimes you might judge a person because of the way they look, and that's not very good. At least I don't feel it is. You have to look at their personality, which is very important, and a blind person has to pay very close attention to that. Mm-hmm. Are you sensitive about the... In realtà i due pezzi non mi sembrano affatto uguali, uno sembrava più lento, l'altro molto più veloce. Forse ho sbagliato tutto, ci sta, sbaglio spesso. E che il primo pezzo volevo far ascoltare perché alla fine c'era appunto Stevie Wonder che parlava della sua cecità, che mi sembrava bello. Poi ero convinto in realtà che questo fosse la versione italiana di quell'altro, però quell'altro era più veloce. Forse ho sbagliato, ma chi se ne frega tanto. Tanto non li conoscevate magari nessuno dei due, quindi alla fine chi se ne frega. E la prossima artista citata questa volta non c'è una frasetta introduttiva, io ho buttato solo lì il nome, è Tina Turner. Tina Turner, che in realtà inizia la sua carriera insieme al signore Ike, che era poi il signor Ike Turner, e sono stati sposati per un po', poi hanno divorziato. È interessante come inizi proprio la carriera, perché è veramente da favoletta, nel senso che lei ha visto suonare Ike Turner, in un locale si è presa benissimo, e poi a una di queste sue serate, praticamente il batterista del gruppo di Turner l'ha invitato la gente a caso a cantare sul palco. Una di queste era Tina, lei ha cantato, Ike ha detto cavolo spacca, e da lì hanno iniziato a suonare assieme. Anche di loro scelgo appunto un pezzo di quelli vecchiotti vecchiotti. C'è da sottolineare come prima tutta la roba che stiamo ascoltando adesso abbia un taglio molto molto soleggiante, molto un po' quella musica che da noi è giunta come Northern Soul, cioè il soul sostanzialmente di quegli anni in America, che poi dei giovinastri hanno iniziato a ballare a Manchester tipo 10 anni dopo che i pezzi erano stati fatti. Non siamo ancora quindi entrati nel vivo del sound, del groove funky, ma poi dopo ci arriviamo tra un pochetto. E ora ascoltiamo appunto Ike e Tina Turner, il pezzo è Take You Higher. È interessante perché l'ho trovato praticamente in una versione fatta live alla Rai, dove c'erano appunto loro che sballettavano e facevano questo pezzo, che non so se i signori dell'area avevano capito, però Take You Higher sarebbe fammi sballare, oppure anche altre cose, però secondo me l'interpretazione corretta è questa qui, e però noi questa versione c'ho, e sentitevi il pezzo. There's something on my mind. Yeah. There's somebody, please. Now, will somebody, please, tell me what's wrong? Tina Turner. Eccolo qua, fine. Ike e Tina Turner erano loro, l'hanno riconosciuti. E i pezzi pe penso fossero almeno due. A un certo punto si interrompeva e iniziava un sound un po' diverso, quindi forse erano due pezzi. Non lo so, io con sti live non ci capisco mai niente. Poi i pezzi li piglio da YouTube e si capisce ancora meno. E abbiate pazienza, so così. La canzone poi va avanti, questa funk che stiamo rivedendo piano piano nelle sue citazioni. Il prossimo citato è Al Green, però Al Green non lo ascoltiamo perché mo pure Obama canta Al Green in televisione, quindi se ve lo volete ascoltare ve lo cercate. Non ci avevo voglia di riascoltarlo. Invece è molto interessante quella che cita dopo, che è Anne Pibles, che è una cantantona, cioè lei veramente spacca. E in realtà è buffo perché noi la conosciamo, almeno sicuramente voi magari non sapete di conoscerla, ma la conoscete, perché in realtà i suoi pezzi, lei ha avuto una carriera lunghissima e più che dignitosa anche come personaggio. In realtà è stata inserita nelle basi, nei remix, nelle cose di un sacco di gruppi hip hop blasonati, tipo, che ne so, i Wu-Tang hanno campionato lei e un sacco di altra gente anche molto brava. Il pezzo che andiamo a sentire ora è I Can Stand the Rain, che forse voi ricorderete meglio la cover, almeno io la ricordo perché ce l'ho questo pezzo, c'ho il 45 giri, lo metto qualche volta alle serate quando mi fanno mettere i dischi, però poi tutti mi dicono toglilo, che cazzo metti, a me mi piace. Il pezzo che si intitola I Can Stand the Rain, cioè non sopporto la pioggia, e io c'ho la versione quella un po' più disco di un gruppazzo che a me piace un sacco, con una cantante secondo me bravissima e anche bellissima, che era cantante degli Eruption. Questi sono diciamo, la versione che io ricordavo, e poi ho scoperto che in realtà il pezzo l'aveva fatto quest'altra, signora, che ora ci andiamo ad ascoltare. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be? Just one sound that I just Eccoci qua, e sì, in effetti io non sopporto la pioggia, mi sono pure ammalato perché questi giorni è iniziato a rifare freddo ed è tornato l'inverno e io subito zac con il mal di gola, l'influenza, eccetera. Peraltro è arrivata qua in studio anche la legittima proprietaria della trasmissione, che evidentemente è riuscita a slegarsi dallo stanzino dove l'avevo legata e quindi ora però mi ha detto che posso continuare io lo stesso perché tanto lei sta mangiando il panino e quindi che gliene frega. E quindi io vado avanti finché mi lasciano, se non mi portano via, e continuiamo la lettura di questo testo della canzone funk di Bette Davis. Siamo ormai a quasi più di metà. Il prossimo citato è Barry White, cavolo. E Barry White era un altro personaggione. In particolare Barry White avrebbe iniziato questa sua carriera musicale, però c'è da sottolineare che prima, quando era sedicenne, è stato inguaiato nella legge, con la legge, come quasi penso tutti i neri d'America praticamente. E lui faceva parte di una gang. Infatti il suo fratello è finito sparato e lui quando aveva 16 anni è finito in carcere perché aveva fatto questo furto, si era rubato 30.000 dollari di pneumatici della Cadillac, solo che l'hanno beccato e è finito dentro. Poi quando è uscito ha deciso di lasciare le gang, che effettivamente non erano tanto un bel posto dove vivere, e quindi ha iniziato a fare musica ed è diventato Barry White. Ma pensa te, hai visto? Alle volte la vita. E di Barry White vi volevo far ascoltare Satin Soul, che è un bel pezzo, a me piace, non è tra i più famosi, però tanto se volete ascoltare quelli famosi, ve li ascoltate su YouTube, insomma, che volete da me. Eccoci qua, era Barry White, Satin Soul, e questo era l'inizio della roba funky. Finora abbiamo ascoltato cose soul, ora siamo entrati a tutto diritto nel funky. Il prossimo pezzo, infatti, che vi faccio citare è anche il prossimo che viene citato nel testo della canzone. Il testo a lui riferito non è soltanto il nome questa volta, ma è Larry Graham, Do Is It Right, vuol dire che l'ha fatta giusta, cioè era buono a fare funk. E lui in realtà fa parte di un gruppazzo che ha fatto suonare un sacco di gente. Avevano però questa attitudine di fare queste mega jam lunghissime. Infatti il pezzo che vi faccio ascoltare si intitola proprio The Jam, e il gruppo era, diciamo, il suo gruppazzo di gente, che era Graham Central Station. C'è da specificare che sia il primo gruppo, cioè Sly and the Feminist Stone, sia Graham Central Station in realtà collaborano attivamente proprio con Bette Davis nel suo disco. Cioè sono tutta gente che lei si era accattata per suonare, perché lei aveva delle grandi idee, però c'aveva pure dietro dei musicisti della Madonna, e quindi era facile così. E quindi il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso dura 8 minuti e 14, ma noi non lo ascolteremo tutto, io una certa abbasso, perché sennò poi mi dicono che non sono radiofonico e faccio sentire i pezzi da 8 minuti e 14. Oh, non ho fatto partire il pezzo. Ora lo faccio partire. We'll be right back. on a clavinet. Playing on a clavinet, y'all. My name is Ted Herschel Happiness. rieccomi qua, ho spudoratamente mentito, in realtà non è assolutamente vero che ve l'ho tagliato, anzi ve l'ho fatto ascoltare tutto per ben 8 minuti e 14, solo che il problema è che mi piaceva un sacco, mi sono messo a ballare, il tempo passa, non me ne sono accorto, ho poi anche deciso di fare altri cambi di programma così per tenervi su vivo l'attenzione, per abituarvi che non è che vi dico le cose e poi succedono veramente, le posso cambiare come cavolo mi pare, e quindi ho preso il microfono mobile della nuova regia che abbiamo qua a Radio Wombat e adesso sto camminando per la stanza praticamente perché abbiamo messo i piatti, i vinili lontanissimi dal mixer e quindi uno per fare tutte e due le cose necessariamente si deve muovere, ma per non interrompere la trasmissione abbiamo messo un comodissimo microfono che uno va e sembra un presentatore e ho fatto anche un altro cambio di programma perché ho visto che effettivamente la canzone che vi volevo fare ascoltare ora, che doveva chiudere un po' la nostra rassegna di questo testo di questo pezzo di Bette Davis che si intitola Funk, in cui viene citato un sacco di artisti dell'epoca che pian pianino noi ci siamo andati ad ascoltare, ecco, ora in realtà siamo arrivati a molto più di metà, ce ne mancherebbero ancora 3 o 4 che cita, però io non li faccio ascoltare perché in realtà non ho selezionato dei pezzi e alcuni avevano di nuovo dei pezzi lunghissimi e che però non è cosa se non la trasmissione dura 3 ore e quindi ho deciso che si ascoltava solo più un pezzo. Il problema qual è? È che il pezzo tale in realtà dura pochissimo e invece il pezzo funk, che è il pezzo originario, quello che vi volevo far ascoltare, io me lo sono portato addirittura in vinile per farvelo apprezzare meglio, solo che essendo che il vinile è lontano e poi la chiusura della trasmissione avverrà con un altro vinile ancora, io non sono capace mentre parlo di cambiare anche i vinili perché ho solo una mano libera visto che il microfono lo sto tenendo in mano e di conseguenza facciamo che prima ascoltiamo il pezzo funk originario di Bette Davis in vinile così riesco a fare play e farvelo ascoltare e solo dopo ascoltiamo l'ultimo pezzo che chiude questa nostra rassegna di musica che piaceva a Bette Davis e piace pure anche a me e ora quindi ascoltiamo funk Bette Davis. They were born with it, and they're gonna leave there with it. Because it's in their blood, and that is why I want you to help me, nigga, now help me. Barry White, Larry Graham does it right, Isaac Hayes, y'all. Some people got to have it. Some people really need it now. Some people will do anything for the love of that stuff called money now. I'm gonna tell you about a man. He had a lot of feeling in his hands, and his name was Jimi Hendrix, y'all. Jimi Hendrix. Oh, what's his name? Oh, he got main bass. Oh, guitar. Oh, he got main bass. Oh, guitar top now. Oh, he got main bass. Oh, guitar sing. Oh, Jimmy, yes, he could. He could make it do anything, anything he used to say. Lady, he used to say, oh, Betty, Betty, I'm gonna get you now. Ow! Aretha Franklin, oh, can't you sing it? I said, Chaka Khan. Rieccoci qua. Sì, ho fatto un gran casino come sempre, che bello. Avevo messo il disco a 45 giri perché il pezzo che vi volevo fare sentire dopo, che è su un altro disco, è a 45 giri e poi me l'ero dimenticato. E quindi il primo pezzo l'avete sentito a 45 giri. Poi, se vi siete accorti che cambiava la musica mentre andava al disco, è tutto vero, perché mi sono accorto che sul mixer praticamente non c'era l'equalizzazione. Quindi ho equalizzato il disco mentre andava, se no era tutto a zero, anzi era meno 15, no, magari fosse stato a zero. Era proprio meno 15 decibel e quindi non c'erano gli alti, non c'erano i bassi, forse all'inizio non c'era niente, non lo so, ma mentre andava al pezzo poi io me ne sono reso conto e tosto sono andato a riparare, e così è, sono così. Comunque sono bravo, perché sono anche tutto da solo e riesco a capire anche gli errori e aggiustarli via via. Spero apprezzerete il mio sforzo. Intanto mi sono tenuto il microfono mobile, che mi fa tanto sembrare un presentatore, perché mi piace, ormai sono entrato in questo finale di puntata, che vedrete ha fortemente a che fare con lo spettacolo e con la televisione. Prima di chiudere però la puntata con un omaggio a un personaggio che è scomparso nel mondo dello spettacolo, che sarà la nostra conclusione ideale della puntata di oggi, finiamo le cosine per bene. Cioè, ora abbiamo sentito il pezzo da cui io traevo ispirazione per questa puntata, che era appunto Funk di Betty Davis. Dal testo di questa canzone sono andati ad ascoltare tutti i vari personaggi citati dalla signora Betty Davis, che è un bel personaggio. Tra l'altro, una cosa che non vi ho detto all'inizio è che lei sostanzialmente è terminata la sua carriera negli anni 70, è tipo scomparsa, cioè ha iniziato a farsi i cazzi suoi, e se guardate su Wikipedia e in giro su internet trovate un'intervista che lei ha rilasciato tipo nel 97, una cosa del genere, dopo 30 anni che non diceva più niente. Qualcuno si è svegliato e ha detto: ma se intervistassimo Betty Davis? E lei si è fatta intervistare, ed è un personaggio ganzo, molto molto umile, che tra l'altro dice una cosa nell'intervista, che appunto lei che era additata a tutti, un personaggio geniale, bravissima, inventrice della fusion, ha detto: ma io in realtà ero soltanto l'espressione di quella cultura di quel periodo, cioè ero un prodotto di quel humus culturale, che è una cosa bella da dire, secondo me, da un artista che non se la tira. E nel pezzo poi avete sentito, ora che l'avete ascoltato, tutte le cose che abbiamo detto. Non è vero, io ad esempio ascoltando all'inizio non capivo assolutamente che lei diceva dei nomi di cantanti, capivo solo Jimi Hendrix, tutti gli altri non capivo niente, però poi me lo sono andato a leggere e ho capito. E tra noi eravamo arrivati ad ascoltare l'ultimo pezzo che abbiamo ascoltato prima di questo, era Larry Granham, e poi lei cita anche Isaac Hayes, che però non ascolteremo, cita anche gli OJs, che non ascolteremo neppure. Poi c'è un lungo pezzo dedicato a Jimi Hendrix, lei infatti era molto amica di Jimi Hendrix, ci sono le voci, quelle maligne, che dicono che lei si è lasciata perché ha avuto una storia con Jimi Hendrix, però secondo me sono tutte cavolate, cioè lei poteva... Cioè, perché uno si deve lasciare perché hai la storia con Jimi Hendrix? Cioè, lei poteva essere sposata con Miles Davis e anche avere la storia con Jimi Hendrix, non è che era necessario mollarne uno e con l'altro. Cioè, secondo me si sono lasciati perché giustamente, ma perché devi sposarti? cioè uno lo capisce e dice vabbè sì, infatti mi sono sposato ormai, però lasciamo perdere. Poi Miles Davis, diciamocelo anche tra di noi, non è che era quel personaggio così simpatico, secondo me, che uno ci passava tutto sto tempo assieme. E quindi lei comunque ha avuto anche una collaborazione molto stretta con Jimi Hendrix, che cita un sacco, e poi cita a finire alcuni altri grossi personaggioni, cioè Aretha Franklin, Chaka Khan, i Funkadelics, e poi cita un pezzo che si chiama Skin Tight, che è quello che ora andiamo ad ascoltare per concludere questa escursione all'interno dei brani che Bette Davis riconosce come per lei importanti nel pezzo funk. Quindi questo è l'ultimo pezzo che andiamo ad ascoltare e poi passiamo alla conclusione della puntata, che sarà una conclusione poetico-cabarettistica, che non so neanch'io che cavolo viene fuori, però poi la improvvisiamo come tutto quello che ho fatto fino ad adesso. Sicuramente farò dei gran casini, anche perché mi sposto verso i piatti sempre col microfono in mano e faccio quello che mi riesce di fare, che avevo una bella idea, la realizzazione non si sa come sarà, ma l'idea era bella, giuro. Baby, I'm about to bust the stitches. Yeah. Skin tight. Skin tight. Wow. Skin tight. Skin tight. Yeah. È finito anche questo pezzo, finisce quindi questo nostro viaggio all'interno del pezzo funk di Bette Davis. Ora ci avviamo a concludere la puntata. Prima di questo vi ricordo che venerdì appunto c'è questa serata al Next Emerson, dove suonerà la legittima proprietaria di questa trasmissione con il suo duo contrabbasso e voce Karakuri. Lei è la voce, non il contrabbasso. Ora sono giunti appunto a trovarmi qua in trasmissione. Poi sono scomparsi perché hanno appunto da andare a provare per lo spettacolo, e oltre a loro suoneranno appunto diciamo questa nuova formazione dei Franti, che eseguono i pezzi dei Franti. In particolare ci sarà Stefano Giaccone, che era il sassofonista e anche una delle persone che ci ha messo parecchio del suo in quel progetto. Ci saranno poi appunto anche altre cose durante la serata che vi ho detto già all'inizio, però non ve le sto a ripetere tutte, se no sembra che dico sempre le stesse cose. E quindi ora tentiamo di andare a chiudere questa trasmissione in qualche modo, visto che avevo pensato in qualche modo di chiuderla, e ora mi ci provo, mi sono incastrato a fare una cosa difficilissima, se non mi viene chi se ne frega, io ci provo uguale. E volevo appunto chiudere questa trasmissione con un doveroso omaggio a un personaggio recentemente scomparso. Questa settimana, io quando ho saputo che è scomparso, stavo proprio leggendo un libro con una poesia che ho detto: cavolo, ma sembra fatta apposta proprio per lui, per questo evento che ci rende tutti così così tristi e partecipi del dolore, senz'altro. E io stavo leggendo questo libro che si intitola Figli di Nessuno, che è un libro delle Amiglie Edizioni, scritto da Sergio Bianchi, si intitola La storia di un movimento autonomo. È un libro dove a un certo punto si cita una poesia che a me è capitata assolutamente per caso, ma mi è capitata proprio lo stesso giorno in cui leggevo della scomparsa appunto di Boncompagni, cioè un personaggio storico della TV che ha dato tantissimo senz'altro a questo mezzo di comunicazione così meraviglioso. E questo pezzo, questa poesia di Nanni Balestrini, che lui ha scritto nel 1985, e sembra fatta apposta proprio per celebrare in qualche modo questa magnifica, diciamo, queste trasmissioni magnifiche, questo mezzo così di diffusione culturale così pregno di idee, di contenuti, che è la TV degli anni 80. E anche quella poi degli anni 90. Boncompagni, ci ricordiamo, fu l'ideatore di grandissimi programmi tipo Non è la Rai o queste cose qua, esatto. E questa poesia di Balestrini si intitola C'è chi loda il letamaio, ed è stata scritta nel 1985. Ora io ve la vado a leggere come riesco, è una poesia, maledetta lui, senza la punteggiatura, perché Balestrini scrive così, anche quando scrive normale la prosa lui si salta la punteggiatura, ne mette poca, mette quella che gli piace a lui, è una sua caratteristica. Poi però è tutto molto bello, ma poi da leggere uno, porco Giuda, è difficile, ecco, è difficile. Io ve la leggo tagliandola a pezzetti, non la leggo proprio tutta perché è abbastanza, allora non è lunghissima, però non è neanche così corta, e io sono il lettore che sono, cioè faccio un po' schifo a leggere, abbiate pazienza. Comunque procediamo. Nanni Balestrini. Qual è il segno culturale del nostro tempo? Il bello di cattivo gusto, cioè la merda, le belle pubblicità di merda, i bei abiti di merda, il bell'erotismo di merda, le belle barche di merda, i bei romanzi di merda, il bel giornalismo di... i bei talk show di merda, insomma. Tutti belli super professionali di merda, prodotti dalla cultura spettacolo di merda, con quella incalcellabile e richiesta vena di cattivo gusto, cioè di merda. Diciamo la cultura dei professionisti di massa, di merda, che lavorano per le masse di merda. È difficile, diciamo noi, disobbedire al proprio tempo. Ci sono tempi che danno licenza di buon gusto e tempi di merda che la tolgono. E chi contravviene alla merda, se va bene, sarà apprezzato dai posteri. Oggi i buoni professionisti della merda, selezionati dai grandi media di merda, sanno mettere insieme colori, immagini di merda, luci, effetti di merda, tridimensionali, belli, bellissimi. Sanno organizzare i bei dibattiti sadomaso di merda, le belle inchieste tutte ritmo e suspense, ma mettendoci quel tanto di cattivo gusto, cioè di merda, che hanno coltivato invece che soffocare. Per piacere allo spettatore massa di merda, e senza un po' di cattivo gusto, cioè di merda, oggi si campa male. Vivere in sintonia con la cultura di massa di merda e vivere nei migliori dei mondi di merda oggi possibile. È quasi impossibile sottrarsi alla cultura del proprio tempo di merda. I compensi agli intelligenti perché producano merda per i rozzi e volgari sono ottimi e tutti più o meno ci siamo adeguati alla merda. E così pure il signor Boncompagni, credo, si stesse parlando anche di lui. E quindi niente, concludiamo questa puntata con una sigla di chiusura. degna del personaggio che siamo andati a celebrare, non Bette Davis, che spacca in assoluto, ma il signor Boncompagni. Non è la Rai.